niente. Ora che una rivista settimanale chiamata Famiglia Cristiana. Rivista settimanale vuol dire che esce ogni settimana. Aspetta solo il nostro giudizio, offende te. Al castello ma non vuole farsi credere te. Marijuana al 13 luglio non è legge te. Yeah.